No, diadea protica è una... è come l'influenza A, è una bufala. Nel senso che ci sia male di influenza, basta stare un attimino attenti e passa, insomma. La diabrotica, sì, vabbè, dà qualche problemino, ma però se si applicano i minimi, ma proprio minimi, indicazioni agronomiche di buona coltivazione, non c'è problema, non c'è. Perché non c'è? Perché la diabrotica è un insettino che arriva dal Nord America, ha un ciclo biennale. L'adulto depone le uova, la larva, negli stocchi del mais, la larva si sviluppa l'anno successivo a spese delle radici del mais. E allora che problema c'è? Basta non coltivare il mais l'anno dopo. E di conseguenza la larva non ha da mangiare e di conseguenza muore, interrompe il ciclo. Certo, se non si fa una minima rotazione, questo vuol dire che la larva, bene o male, si moltiplica e potrebbe provocare dei danni. Perché uso potrebbe? Perché, a parte nei nostri terreni, che coltiviamo come anche Gabriele, che sicuramente non ce l'ha il problema della diabrotica, facendo la rotazione la diabrotica è quasi inesistente. Sì, magari vedi qualche adulto, no, questo piccolo coleotterino qui, che ha la fame di mangiare le setole, la barba delle pannocchie, che però quando la barba è fuori il mais è già fecondato e di conseguenza anche se ce la mangiamo non succede niente, però l'interesse delle multinazionali è di venderti l'insetticida, e per cui tutti gli allocchi. Io dico che la classe degli agricoltori, l'ho sempre detto, anche Lele lo sa benissimo, anche 20 anni fa che lo dicevo, difatti qualcuno delle più grosse organizzazioni sindacali mi prendevano per scemo, insomma, fondamentalmente. Però la classe degli agricoltori è fondamentalmente ignorante. Perché? Cioè, prendetelo tra virgolette ignorante. Perché? Perché non fa fatica a documentarsi. Si documenta tramite i tecnici che arrivano alle aziende, ma guardate caso che i tecnici che arrivano alle aziende fondamentalmente sono pagati dalle multinazionali. E allora sempre qui è un serpente che gira, ma ce lo troviamo sempre. Questi ti propongono di fare trattamenti perché altrimenti c'è dei danni. Però quant'è la quantificazione dei danni? Finalmente quest'anno c'è stata l'Università di Padova, mi sembra, non so, che hanno fatto una minima ricerca su questo, ma sono delle deviazioni standard che sono proprio minime, cioè alla fine della fiera non c'è convenienza. Anche lì vicino a me hanno messo giù delle trappole a feromoni per capire quant'è la densità di sto insettino, e fare tutti i calcoli dei trattamenti è una cosa propositata, no? I costi economici non rientrano, per non parlare dell'inquinamento che si fa con questi insetticidi qua. Cioè, si è parlato della concia del mais che provoca a morire le api, ma questo che probabilmente è peggio. Tenete conto che io ho un vicino che ha un terreno a circa 600 metri più o meno da casa mia. Va bene, voi ci crederete sì, ci crederete no, il caso sì, il caso no. Comunque, quando fanno il trattamento al mais con questi prodotti qui per sto cavo di diabrotica, beh, per quasi una settimana non c'ho zanzare. Mi fermo qua, cioè rendetevi conto voi dell'impatto ambientale che questi trattamenti qua hanno sull'ambiente a 600 metri. Lo fanno con i trample, cioè le macchine che camminando tra le file del mais con delle barre di trattamento sopra il mais, perché lui a 3-4 metri d'altezza, fanno un trattamento. Perché non è con gli atomizzatori che magari sparano a centinaia di metri. Per una settimana non c'ho zanzare. Pensate un po' cosa vuol dire.